una prova. Attenzione per un controllo canale 10. Attenzione canale 10. Canale 10. Attenzione canale 10 per una prova. Ciao Robert, e beh, alle piove. Un be. Ah? Un be. Io sono, ne sono salito da adesso da Porto Torres. Stava diluviando, stava lì alla cosa, ottava, mamma mia. E ho sentito un be di vigile del fuoco, poi ho visto due macchine della polizia, non so cosa sia successo un poco fa, ho sentito. E no, è la tua. E sono passati qua davanti, da casa le ho sentite, però non so cosa sia successo. Sarà che incidente, ma sono andate piano in macchina. Ci vogliono gomme, gomme nuove, buone, e andare piano. Break. Qualcuno in moto. Break. Che è avanti. Ciao Fabrizio da questa parte. Ciao Roberto e ciao Luca. Ehi Fabrizio, allora. E beh, come va? Tutto bene? Stavo controllando mettendo a posto una radio e volevo solo vedere se stava andando bene. Tutto qua. E ho finito adesso. Comunque un saluto e un abbraccio. Fabri, ciao, buonasera prima di tutto. Stai saturando. Aspetta che abbasso un po' il mic gain e allontano la bocca dal microfono. Prova. Adesso ho abbassato un po' il mic gain e ho allontanato la bocca dal microfono. Un po' meglio. Cos'è, che apparato è questo? È un Galaxy. Anche da me prima era un po' forte, troppo forte. Diciamo, sembrava che era attaccato. Adesso va meglio, dai. Mi sono staccato. Il microfono originale. Ma quanto chiara la voce? Naturalmente non è una radio che spinge, comunque va più che me. Va bene, ti ringrazio. Dammi il segnale, per favore. La parte mia è 9+35. Perfetto, dai, allora è sempre il solito segnale, dai. E l'antenna sta ancora funzionando, era un po' ferma quella della 27. Quasi oltre, cioè, 9.30, di più ti posso dare. Va bene, perfetto, wow, grazie, abbiamo fatto queste prove, adesso devo chiudere tutto qua, quindi vi lascio, però stanotte facciamo delle prove in 27, se c'è qualcuno ci fa piacere che entrate, a canale 20 saremo stanotte. Ma stanotte mi sa che andrà da Mario, oggi c'è la partita. Magari anche dopo la partita, che c'entra, vabbè, noi io a me della partita, sinceramente, però, vabbè. Fabri, io rientro a casa verso le 9.30, 10.20. Se c'è qualcuno, magari vi faccio un salto, se ti siamo dei controlli, lo accendo un po', cioè, sto così una mezz'oretta, poi sicuramente mi viene la biocco. Probabilmente accendiamo anche tutti i soliti del 20, capito? Quindi se per caso non si addormentano questi vecchiacci prima, magari intorno al 20 ci ritroveremo un po' tutti, dai. Ok, un abbraccio, che devo chiudere, se no oggi non finisco più, dai. Grazie Roberto e grazie Luca, alle prossime. Ciao Fabri, sempre un piacere ascoltarti. Ciao ciao, vai Luca. Sì, figurati Fabri, se hai bisogno, se posso, io ci sto poco e niente. Tempo mio, guarda, ancora 20 minuti, massimo mezz'ora poi vado via. Che non so, diciamo, io non so a dormire qua. Vabbè, alla prossima, dai. Vabbè, allora. Aspetta un attimino, scusa, guarda, ho messo l'eco, com'è? Si sente l'eco di questa radio? Sta funzionando? Sì che si sente Fabri. Va bene, allora funziona anche questa cosa qua. Ok, grazie mille, dai, ci sentiamo dopo magari. Corretti la partita. Vai Luca. Ciao Fabri. Niente, vabbè. Casino. Quello che ti volevo dire. Ma ieri notte quel vento l'hai sentito, sì. Hai sentito chi? Quel vento forte, tuoni, verso le 2:30 di notte. Boh, non me ne sono accorto, ero talmente stracco ieri notte. No, me ne sono. L'ho sentito, ce l'avete, ma a quell'ora lì probabilmente stavo dormendo. Sì, ma ancora, ma sta lavorando lui? Perché metto Porto Toro, sta lavorando? No. Porta fa una commissione, lavorando lavoricchiando sempre con questi aggeggi, dai. Qualcosina, qualche vetrino lo sto cambiando, ma niente di che. Qualche computer ogni tanto lo formato. fatto così, pulizia ventola, queste cose così. E niente, dai, no. Ma quindi la gente non c'ha soldi. Lo so, purtroppo. Conosco gente, purtroppo, tra l'altro me l'ha raccontato di un amico, un lavoro molto, molto importante, non ti dico dove, perché è un grosso supermercato, una catena grossa, era direttore di questa parte, ha fatto una furia che niente di importante, nel senso dice che la merce di lì, la frutta e verdura, quando si rovi, cioè quando finisce la serata, che è scaduta, cioè che sta iniziando ad andare, ma la prendono e la regalano, passa, questi non so se lo danno alla Caritas o qualcosa. Dice questo ci passa sempre fuori, non davanti alla gente. Ha fatto l'errore di farlo passare davanti alla gente, anche l'hanno licenziato in tronco. Perché non ho capito? Perché non si può fare, dice, quel tipo di merce la devi far passare, questo qua per fare prima è passato davanti alle casse, dai, anziché passare da dietro nel magazzino dove arriva la merce e si scarica, doveva dargliela lì la roba, quello è passato davanti, l'hanno visto, gli hanno fatto la soffiata a questa catena e l'hanno licenziata in tronco, ed era il direttore di quella cosa. Ma pure tu comunque li assente, come va roba? Tante cose da fare, ti racconterò, poi c'ho altri problemi più importanti. Ah, vabbè, anche io ho avuto dei problemi molto, molto importanti. E mia madre non è stata bene, ho dovuta... Che avevo a tempo di stare qua. Praticamente già si è ripresa, dai. Prima ho iniziato con questo diabete alto, non ce la facevamo anche andare in bagno, dovevo accompagnarla in bagno, poi non ce la faceva sollevarsi, era debole, debole, di portarla a letto, era, cioè non potevo lasciarla sola, solo cadeva e poi ancora peggio. Ma grazie a Dio si è ripresa, adesso è autosufficiente, si fa mangiare lei. Guarda, vabbè, ho passato un periodo, guarda, credimi, avrei preferito morire quel periodo. Ma ne mangio, poi quando sono i genitori ancora peggio, perché fanno parte di te, lo so. Purtroppo io ho avuto mia madre, vabbè, adesso non c'è più, 4 anni ha fatto a luglio, e anche lei l'ultimo periodo era allettata, mia madre, c'era mia sorella 24 ore su 24, ma era una tragedia, quel cacchio di Alzheimer ti distrugge, e poi alla fine è diventata uno scheletro, non esisteva più, un vegetale. Comunque mi ha trovato impreparato, cioè io alla fine non è che so, appunto io già mettevo quando vado a fare i prelievi, ma meno male adesso ne è rimasta solo una da fare la notte. Io adesso vado a mangiare a casa della mia ragazza e poi verso le 9:30 vado via da lì, vengo qua un attimo, li misuro la glicemia, poi gli faccio un'insulina, quella della notte, quella è lenta, no? Che gli copre tutta la notte. E niente, prima invece erano 4, mattina, c'è colazione, pranzo, cena e la notte. Ero, diciamo, sempre qua, non mi vedevo che potevo muovere, potevo andare a fare qualcosa, niente. La macchina dovevo essere a casa alle 7, se dormivo a casa della mia ragazza, per fargli l'insulina per fare colazione. Grazie a Dio gli hanno dato una pastiglietta e 3 gliel'hanno eliminate. Dai, un po' robe già posso fare qualcosa, ma non più di tanto. Ti sei un po' liberato un pochettino, se no è un sacrificio enorme, purtroppo. Poi questi diabetici, devi stare sempre allora, non è che puoi dire oggi non ci vado, cacchio, se salti la cosa vai in crisi, è un problema grosso. Ti credo, vai in coma. Devo stare attento, ma deve essere stabile, no? Se scende è un casino, vai in ipoglicemia. Poi se sale troppo è ancora pericoloso. E comunque abbiamo trovato la glicemia quasi 740, 750 se non mi ricordo. E stava sempre male, stava bevendo e pisciando. Cioè, ma ti rendi conto che all'ipidale non se ne sono accorti. Se ne sono accorti quando l'hanno ricoverata, ma qua sono proprio bucaccioni, qua non ne capiscono niente. Purtroppo ci vuole fortuna, fuga. Perché molte volte se trovi il medico che conosce il problema te lo risolve subito, come è capitato a un amico mio, gli ha salvato la vita, un medico anziano, era morto, mi è entrato in coma, alla fine gli hanno tagliato la gamba, una malattia rara, un batterio, non so di che cacchio se l'ha preso, che può capitare a chiunque. Dice di salita la febbre, non so, gargantura, non la febbre, scusa, si è ghiacciato, questo è contrario. sbaglio, è diventato freddo, era quasi morto. Ha portato la moglie, c'era questo qua, questo medico anziano, ha riconosciuto subito questa malattia, le ha iniziato a bombardare di antibiotici e sono riusciti a salvarle la vita, anche se ne hanno avuto amputare la gamba. Dice, è una cosa che può capitare a chiunque, è un batterio che è nell'aria, dice, se ti bizzicheggia quello. E infatti dice, io devo la vita a questo qua, a questo medico qua. Se mai capitavo nell'ospedale migliore del mondo e uno non conosceva il problema, sarei morto. Vabbè, diciamo che adesso sono tutti giovani, vabbè, quello è. Ma poi il discorso che ti fanno aspettare è troppo. Se uno ha un codice, vabbè, ha un codice, chiamiamolo codice verde, avanza. Però non puoi, se quello sta male, sta male. E mia madre era, quando l'abbiamo portata al pronto soccorso, posa, pesa e posa, pesa e posa. Ma veramente, era tornato dal bagno, e poi si sono resi conto che avevo questa glicemia alta. Io cosa ne so, io mica sono un medico, non ne posso sapere queste cose, ma comunque sia, anche quando secondo me dovrebbero mettere un medico a bordo con cioè attrezzati, no? Un medico se ne sarebbe accorto che mia madre aveva la glicemia alta, invece niente, sono venuti con l'ambulanza, hanno detto che non potevano fare niente loro, allora l'abbiamo portata noi in macchina, ce l'ho portata io. E meno male che, guarda, non so, si è salvata in calcio d'angolo. Insomma, poi io non voglio difendere questo del pronto soccorso, ci va troppa gente che non serve a niente, cioè ti bugni una zanzara e andiamo al pronto soccorso, metti il piede male e vai al pronto soccorso, cioè c'è anche la Guardia Medica per le cose leggere. Io ti dico, ho accompagnato la mia suocera quando quest'estate c'era la pressione a 1000, cacchio, ma male male, stavo chiamando l'ambulanza e ho detto no, lo faccio io, la porto velocemente al coso, ho chiamato a mio cognato, gli ho detto dimmi per non andare a fare la fila al pronto soccorso, dove la Guardia Medica, due vigili del fuoco, mi ha dato subito il numero del coso, ho telefonato, ho detto sta arrivando immediatamente. La maggior parte della gente sarebbe andata al coso, al pronto soccorso, vai lì, Mari, c'è gente che sta veramente male, deve fare 4 ore di fila, ma 4 imbecilli. Per quello poi sono andato lì, hanno controllato, gli hanno dato la pastiglia, la medicina e si è ripreso. Ma tipo mia madre, quando è un paio di notifiche, mi ha chiamato alle 2, c'era questo dolore alla gamba, e Marta ce la portava al pronto soccorso. Se mi ha dato un sabbiuglia, arrivo in chili, c'è le 2:30 così, 2:10 non mi ricordo esattamente. E c'era un po' di gente, robè. Addirittura c'era gente da presto, e ancora che non era entrata. Ma sa tu che mamma era appena arrivata. Siamo rimasti lì fino alle 4 e poi mamma non si voleva più stare, dice che stava passando il dolore, non so come, ma stava passando. E l'ho portata alla Guardia Medica, non c'era nessuno. E l'estate è uscita, ha fatto la puntura, ha detto che stava meglio, ma sa che sta meglio. Però se cos'è il problema, roba, che mia madre ultimamente male, si sgocca, deve camminare, bisogna camminare, poi lei perché è stata male ne ha bisogno, invece magna e si sgocca, è sbagliato e poi sta male, ha tutta dolori. Insomma, i diabetici sono così, gli fanno male le gambe, hanno problemi di circolazione. Mia nonna era tutta la vita diabetica, tu vedi come c'aveva le gambe, era una cosa spaventosa, ma lì era un film di terrore, purtroppo, mettiti anche nei panni loro. Tutto comunque, diciamo, il peggio è passato, io mi sono, credimi, trovato in difficoltà, non sapevo più dove sbattere la testa e fare quello, cioè facevo mille cose, pulivo la casa, facevo il pranzo, preparavo la cena, tutto, la lavatrice, va, stendevo la roba e tutto, mi sono trovato, guarda, non lo so, proprio a disagio, non sapevo dove sbattere la testa, non so manco io come ho fatto. E quanto è durata la situazione? È un bel po', tutto è praticamente da gennaio, inizio di febbraio, diciamo tutta l'estate, ecco dai. Quindi è stata lunga, no? Passavo qualche mese. No, cosa dovevi dire? No, so io quello che ho passato, via. Un casino, poi vabbè, gli facevo la puntura, poi lì aveva bisogno di alzarsi e andare in bagno, la sua non ce la faceva, anche se ci provava piano piano, ma se cadeva, è un casino, cade, poi la donna è pesante, ci rimaneva secca, mi devo alzare, insomma, un casino, la roba, non lo so manco io come ho fatto. Cioè, a prescindere dalle punture, dissi proprio, io là con lo stemo, però mi sono fatto forte, e facevo anche le parine, vedi un po'. mamma mia, io sono terrorizzato del lago. Sono andato a farmi l'analisi del sangue un mese e mezzo fa, non perché svengo, ma proprio non ho, è un'ansia mi viene, mi sono girato e ho detto guarda, io non svengo perché ne vedo di tutti i colori, ho visto gente a pezzi, spaccate teste, cervelli, ho visto tutto, basta che non tocchi a me, però gli ho detto, non mi toccare a me perché io ho terrore, non ti faccio niente, me l'ha fatta, ci credo, me ne sono neanche accorto, non c'era neanche il segno del lago, mi ha detto cacchio c'è le vene belle, si vedono benissimo, io ero cagato sopra, e fino a lui dice mi fai fare una puntura, io quando vedo la televisione qualche tossico, qualche film di quelli dove ci sono, mi giro la faccia, mi batte male. Io lo stesso non vado a fare il prelievo, mi giro, mi do il braccio e mi giro. Finito. Poi io dei bambini se, se mi fa questa cosa se posso fare io. E proprio mi prende male. Guarda, allora, la differenza da, faccio un esempio, non so se conosci, sono le penne, no? Per l'insulina. Il lago è piccolissimo, è corto. Invece il lago delle parina è un lago tipo, cioè uguale a quello delle stringhe che usano i tossici, te la facciamo alla pancia. E quella quando gliela infilavo, mamma, sembra che me la stanno infilando io, mi viene la, sai, la scossa alle ossa, quelle gliel'ho fatte per un po' lo stesso. Invece l'insulina, anche quello mi fa un po' impressione, però un po' meno, dai, diciamo, ma il lago quello più lungo è il mio terrore, guarda. Mamma mia, io sarei morto, non mi stai facendo male a me Luca, non esiste. Io, strano che non ti abbia aiutato nessuno, non c'avevi uno di questi assistenti, infermieri? Chi chiamano con roba? Se lo paghi qua non viene nessuno, Non viene nessuno, abbiamo due lì, tanto qua ti ho pagato a fanculo, sapeva che fatto, non c'era nessuno. Ma scusa, ma non ti rispettare il diritto, se una persona ha questi problemi? Rispettare il diritto, io non posso farmi le cose, andare a mullarla, andare agli assistenti, ti danno un'assistenza perché ne ha bisogno, sì, cioè ne ho bisogno. Ma non, cioè, dovevo fare, cioè, c'è gente che, cioè, qualcuno qua, ma non l'ha mai fatto, io non potevo farmi a mille un pezzo. Poi accompagnare all'ospedale, quando c'è la visita, adesso per esempio al prossimo anno, se Dio vuole, alla visita al pacemaker, deve essere stato bene. Ma c'è pure il pacemaker tua mamma? E allora, come sta male, te lo sto dicendo. Si è ripreso un bel robe, se tu la vedevi prima ti spaventavi. Quanti anni c'ha tua mamma? 72. È giovane ancora, ricca. Lo so. Vabbè, vabbè, purtroppo, ma non c'è nessuno. Io ho acceso adesso, io ieri sono entrato dopo tanto tempo, tanti mesi. Ma io vedo ogni tanto, mi roba la sera, quando vengo a casa, se no manco ci vengo, sto lì, direttamente poi me ne vado verso le 9:30, dai, 10:15. Poi arrivo a casa, faccio la puntura e metto il Goku. Ma tu stai andando a casa tua o dopo? Io sono a casa mia, ma diciamo durante il giorno sto lì, cioè da mezzogiorno in poi sto lì, mangio lì, mi lavo lì, mi cambio lì, tutto lì, cioè non cosa, vado a dormire e basta. Ok, ho sentito a Natalino dopo 50 anni, già non ha di senza intendirlo e senza vederlo. Ce l'ho passato domani mattina, a Natalino ci sei, non c'è manco Claudio, strano, sono la 6:30, Marco, Gianni. Gianni, Claudio è passato stamattina in officina per vedere quella roba, erano le pastiglie dei freni, dietro il micinciolare e Rudy, era senza pastiglie. Sì, cazzo, ma 600? Sì, io. E lui mi sa la macchina fiammante, cazzo, quanto non farò che vuole la macchina, bella. Quando gli ho detto, Claudio, se, pensami, bella, bellina con la macchina. Sì, vabbè. No, vabbè, io... Vabbè, già mi sta arrangiando meno male, ma così andava facendo. Poco, là, meno di nulla. Ma tu c'hai la macchina? No, la mia ragazza, ce l'ho sempre io. Che macchina è? È un po' di Fiesta. Già, ma non bene, la tua città, tanto no. Anche Claudio, meglio di andare in moto, la macchina sua più che bene. Infatti è stato un periodo da tutta la busta male. E stavo uscendo in moto quest'estate, alla fine è andato un incipo a casa, dai, ha detto, a me non dire che te l'ho fatta io, è stato un lavoro tutto di gozo, di ripiega, no, me l'ha fottinuta. Vabbè, si dà una rinfrescata per tenerla conto, ma poi già ne tiene conto Claudio le macchine, quello già la sta molto attento. No, diciamo che la macchina della mia ragazza è un po' acciaccunata, un colpo qua, un colpo là, poi da poco mi sono sbattuto anche al muro vicino a casa, sono girato per guardare dietro, mi è venuto un attacco di capogiro, mi è scappata la pressione, ho preso l'angolo del muro e ho tanta maccata. Ma è vecchia la macchina? 2006, vabbè, non è vecchissima, è più vecchia la mia è del 2001. Ah, diciamo che era distrutta, che la usava prima. Io diciamo che la tengo conto perché ti controllo tutto, l'olio, l'acqua, tutto. Non è che qui è fatto. Poi ogni tanto si fa qualcosina, quando si guarda qualche. Quando si brucia qualche lampadina gliela cambio io, mica vado dall'elettrauto. Ma cos'è, diesel o benzina? Benzina, 1200. Sì, no, bisogna mangiare, poi già sei capace, tu non hai bisogno di andare, anche non c'è una cosa grave, già t'arrangi. Sì, ma io ho cambiato anche il serbatoio dell'acqua, mi si era bucato, perdevo acqua. Sono andato da, come si chiama, da lì, c'è una lavabretta di fronte, c'è un coso, no, che è una roba usata. Cioè, mi costava più, usato il serbatoio dell'acqua che comprarlo nuovo, nuovo è costato di meno, cioè cosa da pazzi? Molte volte non sono nepesi, ne metti ricambi, sai? Sì. Molte volte non sono nepesi, capita anche a me, che andi a pigliare un pezzo usato, magari come hai detto tu una vaschetta, dice dammi 30 euro, vai a comprare cosa 28 euro nuova. Però molte volte è esattamente il contrario, normalmente è sempre il contrario. Vabbè, comunque l'ho piazzata e poi gli ho messo l'acqua e Roberto meccanico mi ha dato un colpo di mano, ma così va a posto. E niente, non è che avevo un diploma, un tubo, poi quello va fissata con una vite. Giusto per risparmiare, no? Perché fargli spendere soldi? E poi le altre cazzatine così, cosa ne so, vabbè, come ti ho detto, le lampadine, le faccio io. L'altra volta si è bruciato la vita, guarda, sono andato da un amico che forse l'hai conosciuto a Antonio Scintilla, quello che c'era via Campidano, perché non riusciva a trovare il fusibile dell'acino di sigari. Allora sono andato da lui, non mi ha fatto pagare niente, ma l'ha cambiato. Poi ho individuato, siccome anche da poco mi si è bruciato, ho individuato che era diverso e l'ho cambiato io. Magari lo sai perché parte, perché ci metti l'autoradio, è troppo sensibile, vuole messo un pochettino più alto, se prendi l'alimentazione da lì. L'acino di sigari l'ho preso. Sì, ma tu calcola, l'acino di sigari, perché c'è un fusibile a tipo 15 ampere, più li metti l'autoradio che assorbe altri 3 ampere e ci vuole un fusibile a 20, perché sennò ti stacca sempre. Quale autoradio metto, scusa? La radio ce l'ha... Qual è autoradio? Non è autoradio la macchina. Ce l'ha di serie. Ah, non l'avete messo voi, no? No, è solo per attaccare il telefono, Robè. Il telefono per caricare. E come mai ti salta il fusibile? Cosa ne so, Gugu? Stavolta mi sono accorto che non funzionava, ho detto, porca paletta. Poi l'ho individuato, perché è diverso dagli altri. E allora gli ho messo un pochettino più alto. Ah, vabbè, no, magari era troppo basso. Qualcuno l'ha sostituito, l'ha messo troppo basso. Però per dire, sono cazzatti che si fanno, che si vogliono pagati. E certo, e dove è questo elettrauto? A chi non ve ne so più mi elettrauto, cioè da quando è morto io andavo sempre da Elio, l'hai conosciuto quello mio catarocchino, un amico, andavo sempre lì, ma molte volte me le chiedono, piccole cose le facciamo noi, ma quando sono cose importanti, ma non ce ne sono molti, due o tre veniso a Sassari. No, questo Antonio era un demonio veramente, era quasi a un bel di là, vabbè, va, ce lo diceva a noi, guadagnava un bel di soldi, e purtroppo si è suicidato un paio di anni fa. È morto, non c'è più qui. No. Antonio Solinas, quello che c'era via Campidano, via Campidano, sì. Ma era meccanico quello? Elettrauto. Ma c'è un fratello? Eia. E allora ho capito, quello che si è ammazzato, sì, ho capito, l'amico di mio cognato. Era un mostro, Guarda, lo chiamavano anche da fuori, aiutare i trattori. Era un mostro, era. La verità, era molto, molto, molto ricercato come corso. Non so cosa gli ha preso, diciamo si giocava un po' di soldi alla macchinetta pure, ma vabbè, tipo dentro euro a coipo, non di cugnati ma quasi. Vabbè, quello è visto. Dimmi una cosa, cambiando discorso, ma vicino a te c'è un'officina meccanica? Vicino a me, dove vicino a me? vicino alle scuole. Sì. Mariano lavoro. Sì, sì. Eh no, perché c'è una situazione, mi hanno chiesto delle cose, adesso, ma siete tranquilla, come li conosci? Sì, sì, Gianni, una persona tranquilla, abbastanza. Hai detto, lavoro ne hanno, lavorano bene, perché volevano prendere delle cose da un locale. Loro? Come? Loro vogliono prendere un locale? No, che è troppo piccolo, a me hanno chiesto un locale. No, io, guarda, Gianni lo conosco, mi sembra una persona abbastanza tranquilla. Poi non lo so, Robert, non saprei. A me me l'ha comandato un amico, mi ha detto, no, guarda, è brava gente. Io ci ho parlato, l'ho conosciuto così, mi sembra una persona tranquilla. È giovane questo, no? Sì, Gianni lo ha 35 anni. Perché poi lavora il figlio di un amico mio, insieme a lui. Sì, quello che è la Mini Cooper. Non lo so, io conosco il padre, non so che macchina c'ha dentro. Forse sì, forse c'ha una Mini, può darsi pure. E c'è un ragazzo lì, sì, sì, sì. No, ma te mi sembra una persona abbastanza tranquilla, piccolo il posto. Mi ha detto questa persona che me lo sta raccomandando, ha detto c'hanno un sacco di lavoro, purtroppo non ne possono prendere troppo perché è piccolo il posto. Io la verità devo portargli la macchina, perché devo cambiare della, non so, vabbè, tu già le smontate voi, il montante che tiene, che ci ha attaccato il, come si chiama, il radiatore, no? Siccome era incidentata, ha preso colpi con la macchina, un po' di colpi, ed era spezzato quello che tiene il coso, la, come si chiama, il radiatore. Allora abbiamo comprato la Ford tramite un amico a seconda mano, e dovevo portarlo a lui. Allora lui mi ha chiesto intorno ai 300-400 euro, mi sa, per comprare il prezzo e piazzarlo. Invece un amico usato me l'ha fatto per 200. Ha tutta l'ossatura anteriore, la traversa anteriore, dove si serve il reattore e fare i polizzi? Sì, sì, bravo, proprio quello. Bisogna smontare un po' di roba, c'è l'aria condizionata pure la macchina? Sì. Perché probabilmente bisogna fare anche la ricarica quando lo turi. E poi mi si è rotto a me, perché la macchina la uso io, l'apriporta, quello della guida. Pensavo fosse facile cambiarlo. Vabbè, comunque sono andato un vecchio, cioè mi costava il filo, cazzo, un botto, mi costava un bel. E niente, sono andato con un amico da un vecchio, la vita me l'ha regalato, ho detto, non c'è più un botto e avviati. E sono andato da questo mio amico carrozziere, io poco ci stavo pensando, non so, mai l'avrei portato da te. Ma la vita, ma con questo mio amico mi ha preso niente, non ti devo dare. Ha detto vai, lascia perdere, ci ha messo un'oretta a piazzarmelo, perché è molto difficile, devi smontarne tutto un casino, io non ce l'avrei fatta a farlo. Non ho voluto niente, gli ho fatto da bere. Ma stai parlando del cavo di comando dell'apertura interna? Sì. E hai tirato nel pannello, puoi smontare la serratura, diciamo, tutti i tre quarti d'ora di lavoro, tra attaccando e ripiazzando. La verità, guarda, non mi ha preso niente, questo posso dire, se no ci volevano, non so quanto prendo un carrozziere per cambiarlo, boh. È una ventina di euro più o meno un lavoro, forse anche di più. Vabbè, era un casino, no? Io volevo abbassare il finestrino, tirare la cosa, la maniglia per aprire lo sportello, mi sembra di base. Non lo so, poi sconfio, finché dall'altra parte da ragno, va lato guida la cosa più scomoda, poi se sta piovendo vuoi. Ma infatti, poi all'inverno soprattutto. E niente, comunque questo mio amico me l'ha sistemato e meno male, là. Poi il pezzo non l'ho manco pagato, sono andato non bene di più. Già è buono così, quando ti fanno anche io. Allora, l'altro giorno mi è capitata una cosa a me, stavo andando a comprarlo, ho telefonato, ma chi è meglio qua? Lascia stare che ce l'ho io. E me l'ha regalato. Vabbè, poi si ricambia il favore, non c'è problema per quello. Se un amico, vabbè, se uno non conosce ti fa pagare, ovvio, no? Sì, è normale, vabbè. Però dico, se uno lo fa un amico, l'importante è che l'altro non ne approfitti, perché non so come acqua. Molte volte qualcuno viene a fare il furbetto e poi magari si tirano indietro se per caso ti serve qualcosa a te. Gli amici miei sono molto selezionati. Quando mi serve qualcosa, che cerco di evitare di chiederlo, so che ho le porte aperte. Come quelle persone che se gli serve qualcosa a me, hanno le porte aperte. Vabbè, ci mancherebbe. Ma così è, roba. Cioè, adesso Mario, chiedo un favore a te, e magari tu non mi prendi niente, faccio un esempio, poi mi dici, lui che c'è per caso, vabbè, se c'ho volentieri, vabbè, io sono fatto così, io ricambio chi ricambia, e mi, guarda, te lo può dire Claudio, con Claudio non ho problemi, la verità non mi sono mai fatto problemi, se ha bisogno, chiamami, dove è il problema, mica... dinamico si può fare queste cose, no, con uno che se ne approfitta come hai detto tu, come lo fanno, se lo fanno, l'hanno fatto, tuttora lo fanno. Già lo so, anche qua in questo tipo di trasmissione, già che invece il lotto già c'è, già l'ho già inquadrato bene. Io l'ho già bene una cosa, ma te lo ricordi quel microfono che mi avevi dato tu, cioè l'M93 quello amplificato? Allora se ci chiede una cosa, che la batteria è sempre quella, sta sempre andando. Quanti anni ce l'avrò? 6 anni, 7 anni. Buonasera a todos. Ciao Cla, hai capito? Sì, ciao Cla, sì, me lo ricordo. Per dire, si ricambiano, non è che c'è, cioè, quando ti busso di, mi fate un piacere, non mi piglia nulla, ma il posto io lo posso pagare, quindi niente che lo fate, se c'è a voglia, ma non posso manco un nome. Allora io non ti faccio nome, perché non mi piace fare nome, ma chi mi conosce sa di chi mi sto riferendo. Claudio è uno di quelli, per dire. Ma infatti domani mattina vengo, non pago niente e Danilo mi cambia le pastiglie. Figlia di Lucci, no, infatti me stiamo parlando, non so se hai sentito il discorso qua. C'è gente, quando per dire, se tu mi chiedi un accoso, io lo faccio ben volentieri, naturalmente, se posso farlo. Come sono sicuro, se ti chiedo una cosa a te, tu ti sacrifichi o ti fai in quattro per farla. Luca è capitato anni fa, lo stesso mi ha dato una cosa, lui ha le porte aperte, quando serve qualcosa, nei limiti del mio lavoro posso sempre aiutarle, non mi tiro indietro. Purtroppo c'è gente che ne approfitta, i cosiddetti furbetti, che poi si parlano anche male. E vanno anche vedere per parte. Ciao a tutte e due, comunque buonasera. Sì, vi stavo ascoltando, sono rientrato adesso, che ero a portare il cane. Roberto, so, tu con me c'hai un rapporto, come io ce l'ho con Luca, forse siamo in pochi, capito? Perché Luca si dà un caro godo, la stessa cosa faccio io per lui. Tu purtroppo hai un'attività, quindi magari mi puoi chiedere cose che io non sono in grado di farle, però se capita che hai necessità di altre cose, lo sai, il problema non ce ne sono. No, stamattina già tu non c'eri, ha tolto la ruota Danilo e ha detto che non ci sono pastiglie davanti, quelle non le avevamo fatte, capito? E quindi sono andato a prenderle stasera, poco fa, e domani mattina ha detto di passare che me le piace, tanto ci vuole 10 minuti. Va bene. Piovendo. Questo è il Galaxy Saturn Echo, vabbè, non è il superstar, sempre con l'MB più 5, come va? Questa è una bomba, meglio di quell'altro secondo me. Meglio dell'altro? Questo è. Io qualsiasi microfono metto. Vabbè, i baracchini sia il Saturn che l'altro c'hanno anche la 48, c'hanno tutte e due l'MB più 5. Quindi non è che li cambio, sono due MBP5 diversi, però sono originali. La mia voce è sempre la mia voce, vero Garie? E allora, ti faccio un esempio, Robè. Questa baracchina me l'ha sistemato Fabrizio, come mi ha sistemato l'alimentatore. Poi se lui un domani chiede un favore, io sono sempre pronto, mica me ne sono dimenticato, anche se gli anni passano. Se sta andando è per me il tuo suo, perché me l'ha sistemato lui. Guarda, io di Fabrizio gli faccio il monumento. Fabrizio è una persona, una di quelle poche persone che posso dire, quando gli chiedi qualcosa si tronca il collo, gli ho detto io sono in debito con te, quando serve qualcosa del mio lavoro. Mi ha sistemato da poco un apparecchio importante, ti posso dire Fabrizio è una persona che merita. Non posso dire niente di male di lui, come non posso dire niente di Claudio, di Luca, di pochissime altre persone che ci sono qua. Faccio un esempio, cioè, io alla fine non me ne dimentico, poi se lui domani mi chiede, lui ce l'hai un pezzo di stagno, pronti? Perché so quello che ha fatto, mica glielo faccio pagare, per dire, se qua tu sì. Però con me gente se, vabbè, non gente di qua, però chi si è comportato male, io gli ho fatto la croce. Cioè, ti mostro piacere, non ti domando nulla, tu mi domandi di là. No, tu sei fuori proprio, fuori dalla lista. No, lo so, purtroppo c'è troppa falsità. Io sono una persona molto leale e sincera. Con me, se sgarri una volta, è finito. Ah, troppo. Se non ti conosco, non guai. Già ti ricordi cosa abbiamo fatto alla 600? Cosa ti ho detto? Cosa mi hai detto tu? Vai tranquillo, vuol dire che c'è fiducia per fiducia. Ma hai forse telefonato? No, ma a parte quello, Claudio, te già. Però ricordate che non dici che l'ho fatta io la macchina. No, tu sei guasto. No, ho sempre detto che me l'ha fatto l'amico, poi nome non ne ho fatto. so che magari ce la guarda qualche professionista bravo, dite ma che difettuccio, vabbè, ma abbiamo avuto dei discorsi di incipaccatura, come diciamo noi, dai, ma diciamo già va più che bene. Ehi, più che bene, è una grande, non ti preoccupare. Qualità prezzo, come si dice. Si lavora così, dai, non ti preoccupare, vabbè. Ma è da finire anche l'altro lavoro della cappotta, che tre cose sono da fare, adesso vediamo. Se riusciamo a metterla in mezzo prima di fine anno o l'anno nuovo, perché mi serve un bel. Mi sto muovendo più adesso, vabbè, che sono in pensione, che prima, va, credimi, mi sto rientrando adesso. Ogni giorno, ma non perché sto in giro, perché mia moglie va a fare commissione, poi è morta la zia, quindi l'ho accompagnata a casa sua perché è morta a casa, e sono uscito con mia figlia, eravamo al commercialista, poi sono andato al patronato, giù sempre andando e tornando. Ormai sei diventato vecchio, che a parte che non ti vada seduto nelle panchine, vedi già, come ti va a tenere tutto? No, penso proprio, già mi conosci, io non sono da bar, io la mattina vado a piazzare Segni, ma ti parlo alle 8 a prendermi un bel caffè, perché a casa caffè non ne bevo, prendo lì un caffè, do un'occhiata al giornale perché me lo fanno guardare, poi alle 9 io sono già a casa. Mi ci stai molto male, 9 e mezza, alle 10 sono seduto qua, io tutte le mattine sono in radio con quelli che trovo, faccio due chiacchiere, però oggi non ho tolto testa fuori, nel senso a stare in giro, solo a fare commissioni, roba, quindi. Vai Luca. Stavo leggendo qua, allora, la Sassa richiede l'etilometro per l'investitore, positivo anche lei. Quindi avrei che arriva la patente. Cosa Luca? Vabbè, dove sta qua? Ha avuto un incidente, no? E ha chiesto l'etilometro per l'investitore. Ed era positiva anche lei al coso, all'arco, al contesto. Ma è un imbecille. Rischia, dai, allora la conseguenza sono simili. Ammenda da 800 euro a 3.200. Poi è arresto fino a 6 mesi. Perché, ma non è, sai che sei cotto, ti curi o ti vengono addosso e chiami per fare il chilometro, mettiti d'accordo e vai dini. Intanto, adesso quando intervengo lo fanno ambedue le parti, la legge è quella, capito? Anche se non le chiami tu, che interviene la pattuglia, te lo fa anche a te il chilometro, per legge, soprattutto quando ci sono incidenti, capito? Ma c'era un incidente lì vicino via Carlo Felice, infatti dovevo andare allo spine, sono andato in quello di via Verona o Roberto. E lo stavo dicendo a Luca, deve essere detto, è successo qualcosa, perché sono uscite due, ho sentito ambulanze, poi ho sentito forse vigile del fuoco e poi polizia, erano sirene di polizia, non erano sirene di coso, di normale. Comunque entrambi gli hanno sequestrato la patente, dai 6 mesi a un anno. È bella imbecille, Edda. Sì, ma guarda, se non è un incidente hanno investito qualcuno nelle strisce pedonali dell'Eurospeed, è già la seconda volta, perché non si vede niente, Roberto, non si vede niente. Ma è più suo, prima parte dello spindi, non so se sei andato dove c'è il fisioterapista, che ci sono due pali, hanno accoltato il marciapiede e sono rimasti i pali della luce, la gente che esce dove c'è, ma cacchio si chiama, non mi ricordo come, vabbè c'è il fisioterapista di lì, Marco Angius, di fronte al distributore, come ne esci di lì, uno ce l'ha portato in officina la macchina, l'ubile in pieno questo palo, proprio non si vede niente. Lo sto dicendo, non si vede niente, nulla, niente, già la seconda volta, una all'ora di pranzo, perché scendono da via la piazza dei Segni, Paradi, poi c'è quella semicurvetta lì, quindi sulle strisce pedonali nessuno rallenta, pure scendono la via Carlo Felice a 1000, capito? Sicuramente, siccome sta piovendo, ha pattinato la macchina, o ha investito qualcuno, si soccuti, scende dall'Eurospin e si fanno male lì, si fanno male perché scendi veloce. Sì, infatti io sono uscito lì da vicino a te, perché ero in via Promettere al commercialista con mia figlia, sono uscito da lì e la mia mi ha detto andiamo all'Eurospin, ha visto tutti i lampeggianti, tutta la fila delle macchine, tu mi vedi, lì c'è un incidente, aiuto, siamo andati via Verona. Ma a me l'hai messa da anche uno, perché ho sentito tutte una volta le ambulanze e cose, un bel di rumori di sirene. Detto, qualcosa, per un incidente di macchina normale non credo che ne sia tutta quella gente. No, c'erano un bel di lampeggianti, almeno 3 o 4, capito? Si vedeva quella lampeggiante alto, da dietro 4 lampeggianti e qui sono i vigili del fuoco. Quindi quando sono i vigili del fuoco è pericoloso. poi c'era l'ambulanza dietro di fianco nell'altra carreggiata, si vedeva una macchina con lampeggiante, non so se erano vigili urbani, carabinieri o polizia, non lo so, ma di solito intervengono i carabinieri o i vigili urbani, se sono impegnati i vigili urbani intervengono i carabinieri, città, la polizia stradale no, però dipende cosa è successo, se non è caduto qualcuno in moto, non lo so, una giornata di merda, guarda che viene bene a dirlo, la gente non sta attenta, è un casino, vabbè, speriamo che non sia successo niente di grave, dai, avanti Luca, quindi questa radio poi Roberto mi hai detto che ti piace, quindi si può usare, dai. Ciao, una bomba, una delle migliori sentite di Baracchini Normali. Grazie a Robby, vai Luca. Ehi, mi sa che è ora per me, un altro 2 minuti poi vado, dato la cena è pronta, pronta il pollo con gli olive da confetto, buona reddua. Non lo so, c'è l'aria ai fornelli, non so cosa stia facendo, non lo so, dopo c'è lì a casa. Carote a vapore, broccolo lesso, capito? Roba di zera stanotte, roba dai pirati, mi siamo roba buona. Vabbè, interessante mangiare. Ciao Ilaria. Saluta il GT7. Ciao. Ehi, vabbè, dai. Andiamo a riempirci lo stomaco. Piano piano, stanotte mangio poco però, perché quando mangio qua. Io mi mangio prima il primo, il secondo e poi la frutta. Tipo frutta, guarda, non dico balla, almeno più, non dico, guarda, faccio un chilo di frutta ma la mangio. Vabbè, no, l'aria è molto vegetariana, quindi non c'è lei, anche queste cose si mangiano, però già mi piacciono, roba leggera, ieri notte mi sono abbuffato e meglio mangiare leggero stanotte. Va bene, ma roba è notate più a freddo alle 7:30. Ma vicino? Sì, ando via zio Giovannino per alle 7:30, io usai sì. Vabbè, ma era nato tempo, apro io la mattina alle 8:10. Ah, vabbè, alle 8, quindi dai, e le 8:30 sarò lì, anche prima, dai, ok, va bene, quindi fammi spazio, davanti ho detto dire a Danilo di aspettarmi, invece ce l'avevi appigliato lo caffè con lui. Guarda, io non mi pare che ne abbia almeno 4 la di dozzo. Prima la mattina, vabbè, poi alle 9:00, io prendo il caffè delle 10, poi alle 11, poi dopo pranzo, poi l'altro, boh, almeno 4 caffè se ne bisogna. No, io non so. Ok, va bene, uno solo, vabbè, una mattina, se vuoi venire bene, se no si arrangia, io per le 8:30 già sono lì, così, ma ci vuole 10 minuti a togliere, dopo mettere quelle pastiglie, perché non ho toccato per niente la macchina, ma te non toccato, perché non ce n'è nulla, se salta la pastiglia e rompi il disco, capito? Ok, avanti Luca, che devi chiudere. Ah, Robè, ma sempre quei ragazzi famosi, carrozzieri, sì. Non lo so chi intendi per ragazzi tu. Quei Giovanni ti c'avevi prima. Allora, io adesso ne ho solo uno di, diciamo, in carrozzeria, e poi ci sono due verniciatori, cioè un verniciatore e un aiuto verniciatore. Ma ragazzi che c'erano roba, non venivo io. Ne sono passati, non lo so se sono, tu quanti anni ci fate parlare? Non mi so, 3, 4, 5 anni fa, Allora, quelli erano in due, adesso ne è rimasto uno di questi. Ah, c'è sempre, no. Quello cos'è? Carrozziere? Cioè, la mia lista? No, vabbè, è operaio come titolo, ma guardate le cose, apprendista, ma apprendista proprio che sta apprendendo. Dai, faccio la vita. Vabbè, dai, sennò qua mi linciano un casino, io. Dai, buona cena, alla prossima, riprendi tu. Ci sentiamo domani se Dio vuole. Ciao Roberto. Ciao Luca, hai sentito, ciao. Ciao Lugarie, alle prossime, tante cose belle, vai, ci sentiamo. Ok, sì, beh, Riccardo è rimasto. E vabbè, ma un ragazzo più volenteroso mi sembra dell'altro, no? No. Assolutamente no. Luca, ricordati quel caffetto famoso, quando è che me lo porti? Telefono un attimo, scusa. Se tu non mi mandi un messaggio, cacci il WhatsApp, manda un messaggio la mattina, così io lo prendo, ce l'ho qua, lo prendo. Poi i radiali li vediamo un secondo momento, almeno quel caffetto, perché i radiali sono sempre su, capito? È freddo, alzare, devo spostare tutto, ma quello me lo posso fare con calma, intanto lo già dice, veniva. Però quel caffetto ce l'ho qua, se tu mi chiami, io te lo porto, ma lo metto in macchina e te lo porto, anche domani per esempio, che tanto devo andare da Roberto, poi c'è un giro per fare commissione, magari a metà mattinata ti chiamo, se sei sei impegnato magari te lo lascio l'allello, oppure ci vediamo. Allora, radiale mi serve uno per vedere se c'è rimasto il pezzettino dentro, perché c'è un tipo una, come si chiama, una, un coso dorato, dai, color oro, e non so se quel pezzo lì deve stare dentro, oppure ho il pezzo, o è il pezzo che è rimasto della, del radiale vecchio. È il pezzo che è rimasto del radiale vecchio, quello, ti ho detto, devi trapanarlo e toglierlo, poi io ti do i radiali con già il pezzo del suo, quello che entra e poi ci va la vite. Però se è rimasto il pezzo rottone dentro, nel porta radiale, lo devi togliere, se non entra il radiale. Infatti, però mi sembra, vabbè, quello vabbè un secondo momento, se no guarda che la, no, non è che mi servono urgenti, però volevo fare la prova, se li compro in alluminio, mi faccio un buco in parte, anzi no, neanche, al limite una passatina di molettina, glielo lascio i pezzi dentro e li metto quelli in alluminio. Non puoi mettere quello in alluminio dentro lì, come fai a metterlo? È un alluminio sottile sottile e quel foro deve essere libero, se no come fai a metterlo? Mica glielo puoi mettere più grande a entrare sopra, non va bene, non fa massa Luca, non va bene, non li vale che aggatti. Devi trapanare e togliere quel pezzo, ok? Vai un attimino, te la metti in macchina quando c'hai la macchina, vai un attimino, ti avvicini l'officina del Roberto, quel trapano a colonna ci vuole un secondo, non stai neanche a dirlo che è fatto, capito? Il problema è che il pezzo grosso non esce, non posso portargli la basetta, dove me la carico in macchina non ci sta. Quale basetta? Il piantone? Il piantone non esce, no. Tanto che ci smonta tutta tranne che quel pezzo grosso, il pezzo più grosso. Il piantone le porti, cosa vuol dire la basetta? Il piantone, allora a me, se lo posto io, il piantone è un metro, tu lo poni in macchina, non me l'ha fatto a me Roberto, ti ricordi Roberto che avevamo portato l'antenna, non me l'avevi fatta tu. Non ci sta, cla, che è grosso, il pezzo, cioè lui il pezzo più grosso, no? Quello che poi va in netto, cioè inizia dalla grotta, ma non va a finire sottile, quello lì, diciamo il pezzo non esce, manca a colpi di martello, perché è ossidata. No, non ti confermo, ma c'è l'antenna intera o solo il pezzo grosso? No, cla, quanti pezzi è l'antenna? Il piantone dove c'è la spirale, quello lì, quel pezzo lì, dov'è? Quello lì c'hai? Quello col pezzo dell'antenna, il pezzo del tubo. Ah, allora è troppo grande, pensavo che ne avessi tolto il pezzo del tubo, capito? Se no due minuti ci vuole due minuti col trapano a colonna, proprio due secondi, lo metti nel trapano a colonna, fai con la punta sua e ne esce da sopra ed è libero, boh, fatto. E poi puoi innestare, se non togli quello non entra il radiale lui. Radiali esterni non ne puoi mettere più grandi, li devi mettere fini fini che entrano lì dentro, e a quel punto a cosa serve? Vabbè, tu hai ragione. No, perché ho notato anche, quando vado a avvitare il bullone che blocca il radiale, entra dentro, non lo so, dovresti vederla qua, in caso domani mattina se scendi, se hai qualche minuto di tempo, così lo vediamo. Vabbè, dai, mi sa che è entrato anche il valino, lo saluto, io chiudo, ciao, riprendi il valino, ciao. Oh, Claudio. Ehi, Robè. Vabbè, mi devo lasciare, dai, ci sentiamo un altro momento. Ciao Luca, ciao a tutti, dai. Io devo chiudere, ciao ciao, a domani qua. Ehi, a Robby, ci vediamo domani mattina, ciao, un abbraccio. Buona serata, buon tutto. Va bene, Lu, dai, adesso me la metto in macchina e domani mattina appena mi libero ti chiamo. Ok, perché c'è un sacco di cose da fare. Se riesco ti chiamo, vai. Non ti dico sì, comunque se riesco ti chiamo. In ogni caso me lo metto in macchina quel cavetto. Ciao, buona serata anche a te, avanti Valerio. Valerio!